Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Nella vecchia fattoria, ia ia o, dove c'è lo zio Tobia, ia ia o, c'è un bel cortile, un orticello, un gran recinto col cancello, c'è vicin la ferrovia, ia ia o. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Tra i vostri amici c'è un cane, un gatto, un criceto, un pappagallino, un merlo indiano, un furetto, un coniglio nano? Avete insomma un amico peloso, pennuto che vi aspetta quando tornate a casa e che occupa un posto nella vostra vita, anche nel vostro cuore? Benissimo. Allora, insieme ai vostri beniamini, siete gli ospiti d'onore della puntata di oggi. Potete chiamare al nostro numero verde 800 24 00 24, scriverci un messaggio al 349 238 6666, e come sempre potete seguirci su Facebook o su Twitter. Molte ricerche dimostrano che vivere con un animale faccia bene alla salute, e questo al di là del nostro coinvolgimento emotivo. Io direi di partire proprio da qui, da quello che produce in noi la compagnia con un animale peloso o pennuto, un animale a quattro zampe, un cane, un gatto, un cavallo. Gli animali da compagnia fanno talmente bene al cuore da ridurre il rischio di soffrire di disturbi cardiaci. Ad affermarlo è Glenn Levine, docente al Baylor College of Medicine di Houston, secondo cui possedere un pet, in particolare un cane, è probabilmente associato a un rischio ridotto di malattie al cuore. Dagli studi è emerso che probabilmente avere con sé un animale da compagnia riduce i fattori di rischio cardiovascolare, perché i padroni, portando a spasso il cane, aumentano l'attività fisica, riducendo il rischio di obesità. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Nicoletta, e buongiorno ai nostri ascoltatori. Gli animali sono terapeutici, possiamo dire così? Sì, possiamo dire senz'altro così, ormai è sicuro, adesso a parte questa nuova ricerca in cui si dimostra che l'attività fisica legata appunto alla cura dell'animale, che è quella fondamentale per portarlo a passeggiare, significa farlo star bene, ma significa far star bene anche il padrone, quindi mi raccomando, utilissimo. Sappiamo da tempo anche che gli animali ci sono vicini, ad esempio la famosa pet therapy nei bambini quando sono ricoverati in ospedale. Abbiamo avuto esempi di vario tipo, ad esempio l'uso della ippoterapia con i cavalli, con i bambini che soffrono di qualche handicap, insomma. Anche gli asini vengono utilizzati con successo. Esatto, quindi il contatto con l'animale, che è un contatto vivo, caldo, un contatto con un qualcosa che disposto a donarsi a noi a 360 gradi, senza remore, se noi lo sappiamo trattare, rispettare e curare, può solo far bene, perché ci aiuta a sentirci più vivi. Dottor Gargiulo, lei ha parlato di contatto e mi vengono subito in mente le coccole, il momento delle coccole. Accarezzare il gatto, il cane da casa è un momento di grande relax, e alcuni studi dimostrano che questo aiuterebbe addirittura a far scendere la pressione arteriosa. È possibile, dottore? Sì, è possibile, perché noi sappiamo che il nostro cervello, nel momento in cui ci rilassiamo, mette in circolo delle sostanze, delle endorfine, che ci aiutano a star meglio, fondamentalmente una specie quasi di sostanze calmanti naturali, ed ecco che questo può avere un effetto vasodilatatore, cioè allarga un po' i vasi e può farci diminuire la nostra pressione. Quindi anche qui va benissimo, è un effetto rilassante eccezionale. Addirittura, comunque, noi abbiamo una similitudine con gli animali. Recentemente il nostro sulla rivista Nature, che è una delle riviste più importanti al mondo internazionale della scienza, è stato pubblicato che la modalità di sviluppo del linguaggio che hanno i bambini ricorda molto la modalità di sviluppo canoro di alcune specie di uccelli. Questo è importante per capire quanto poi alla fine il nostro filone, il nostro punto di partenza è comune, è unico, e quindi come dobbiamo essere assolutamente rispettosi dei nostri amici animali che tanto ci possono far bene. Dottor Gargiulo, lei ha un cane, un gatto, un canarino? Io purtroppo no, non ho animali perché con il tipo di vita che faccio non riuscirei ad accudirlo come voglio. Sto poco a casa e poco a Roma e quindi non riuscirei a star dietro ad un animale. L'ho avuto però da bambino e devo dire che è stata una delle esperienze più belle che io abbia avuto, proprio questo cane che era completamente dedicato a me, talmente sensibile che sentiva quando io ero a un chilometro da casa il rumore della mia motocicletta, mi diceva mia madre che partiva da qualunque punto per aspettarmi al cancello. Fantastico, grazie dottor Gargiulo, buona giornata. Grazie a voi, grazie per essere stato, arrivederci. È per te tesoro. Che deliziosa cagnetta, la chiamerò Lilly. Andiamo Lilly, vieni qui. Su, su, da brava. Ecco qui un bel lettino per te. Ma Gianni caro, credi che starà abbastanza calda? Ma certo tesoro, starà comoda come un pascià. Oh Gianni caro, non vuole star sola. Non credi che potremmo, almeno per stanotte? No tesoro, se dobbiamo mostrarle chi è che comanda, dobbiamo essere severi fin dal primo giorno. Gli animali entrano a pieno diritto nelle nostre case, occupano i nostri pensieri, trovano spazio nel nostro cuore, con loro si instaura una relazione sentimentale emotiva, sono dei veri e propri amici che occupano un posto sempre più importante nella nostra vita. Tanto che ci sono anche delle esagerazioni, stanno già arrivando i messaggi, molti, mi scrivono alcuni ascoltatori, trattano meglio gli animali domestici dei bambini. Ma oggi vorremmo fare un po' il punto sulla relazione uomo-animale, ma anche naturalmente parleremo anche di gatti, parleremo degli animali domestici in generale. Lo faremo con Angelo Vaira, che è in linea con noi. Ciao Angelo. Ciao Nicoletta, buongiorno. Esperto del comportamento del cane, agevolatore del rapporto uomo-cane e autore di un libro che io cito spesso perché mi è piaciuto molto. Io vivo con un cane, con un cagnone, femmina, si chiama Emma, ho messo anche le foto ho messo le foto su Facebook. Il libro di Angelo Vaira, che mi ha molto aiutato e che io continuo a consigliarvi, si intitola Dritto al cuore del tuo cane. E Angelo, in effetti gli animali puntano proprio dritto al nostro cuore, è che bisogna considerare però che dobbiamo creare con loro un rapporto che sia equilibrato, non sono bambini, non sono persone e sono proprio belli perché sono animali. Esattamente, ma infatti questo è il vantaggio, no? Spesso uno pensa al cane come se fosse un surrogato, no? Non posso avere il bambino quindi ho il cane. In realtà ci sono dei tasti che solo gli animali riescono a pigiare, no? Il cane è uno di questi. E quello che dobbiamo capire è proprio il fatto che se trattiamo il cane come un bambino non gli stiamo facendo un favore. Cioè spesso noi diciamo lo tratto come un bambino, ma perché deve comportarsi in questo modo? È proprio per questo, cioè il cane ha i suoi diritti, è importante riuscire a come si dice, trattarlo bene, ma trattare bene un cane non è come trattare bene un bambino, hanno bisogni differenti, hanno diritti. Ecco, differenti. Vediamo il mondo da due prospettive diverse. Stiamo parlando del cane, ma naturalmente, Angelo, parleremo anche dei gatti, naturalmente, insieme anche ai nostri ascoltatori che, se vogliono, possono intervenire per raccontarci le loro storie, ma anche per chiedere un po' un aiuto ad Angelo. Angelo, tante volte, proprio dato che noi tendiamo ad umanizzare il nostro animale, andando al parco, incontrandoci con gli amici, diciamo, sai che mi tiene il muso, mi fa i dispetti. Ecco, c'è questo modo di pensare. Sì, vero. Tra l'altro la ricerca oggi sta compiendo dei passi avanti, cioè un comportamentista ti direbbe ma assolutamente no, il cane non arriva a provare quel tipo di emozioni, mentre oggi c'è qualcuno che comincia ad avanzare l'ipotesi che in realtà il cane lo faccia appositamente perché si senta offeso, tra virgolette, o perché si senta preoccupato. Nella mia idea però noi dobbiamo raccogliere dal comportamento del cane il fatto che effettivamente un cambiamento è avvenuto, e che probabilmente se noi lo lasciamo già a casa quando andiamo al lavoro, poi lo lasciamo a casa anche quando andiamo al mare e non soddisfiamo le necessità sociali del cane, perché il cane è un animale sociale, ricordiamolo, questo comunque non gli fa bene. E quindi insomma anche il cane può pian piano guidarci a capire lui stesso, no? Indipendentemente dalle varie teorie che gli addestratori o i comportamentalisti possono suggeriscono. Possono, sì, esatto. Diego ci chiama da Lecce. Diciamo che il criterio principale è veramente il cane. Se noi impariamo a leggerlo, perché il cane ha un'espressione facciale, degli schemi comportamentali, una vita emotiva molto ricca, questa è la base. Cioè, se noi riusciamo a leggere il comportamento del cane, riusciremo a scoprire delle cose sul cane stesso, su noi stessi, avremo una sorta di cartina di tornasole. Cioè, sto pensando a qualcosa, ma è vero, lo devo chiedere prima di tutto al cane. Ed è questo scambio, questo arricchire la nostra percezione, la nostra vita con le percezioni di un animale che è così diverso dagli esseri umani ma ci perdona così tanto, è proprio questo che ci arricchisce, ci fa crescere, e quindi abbiamo sia dei vantaggi dal punto di vista medico, come ci diceva il dottor Gargiulo poco fa, ma anche da un punto di vista cognitivo, psicologico, e quindi siamo più felici. 800 24 00 24, se volete parlare con noi, se volete chiedere anche delle indicazioni, dei suggerimenti ad Angelo Vaira per interpretare alcuni atteggiamenti dei vostri animali. Abbiamo in linea con noi Diego che ci chiama da Lecce. Buongiorno Diego, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo raccontare la mia esperienza. La mia infanzia l'ho passata in mezzo, diciamo, sempre a gatti, diciamo, a gatti e anche cani. Ho preferito, diciamo, sempre instaurare una relazione migliore con i cani, ritenendoli, diciamo, che più capaci di manifestare il loro affetto. In realtà, da quando convivo è arrivato un gatto in casa, come regalo della mia compagna, ho saputo apprezzare, diciamo, l'affettività del gatto, con mia dolce sorpresa, nel senso... li ritenevo sempre, diciamo, diffidenti nella relazione con l'uomo, nel senso che veniva solo per mangiare o... Sì, perché c'è questo luogo comune, questo stereotipo che dice in realtà con la mia esperienza lo riscontravo, nel senso avevo probabilmente ero io che avevo una relazione migliore con il cane. In realtà da quando ho il gatto in casa ho scoperto Diego, un mondo nuovo. Sì, Diego, il suo gatto l'ha conquistata. Diciamo di sì. Ammettiamolo. Diciamo che ne sto prendendo un altro. È un mondo meraviglioso. Grazie Diego. 800 24 00 24, ma lo sappiamo bene, la convivenza con i nostri amici animali comporta anche degli eventuali rischi, e quindi dobbiamo attrezzarci, conoscere proprio delle indicazioni di base. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Oscar Grazioli, veterinario, giornalista, scrittore. Ricordo il suo libro, uno dei suoi libri particolarmente interessante che vi segnalo, Quello che gli animali non dicono, L'età dell'acquario. Buongiorno dottor Grazioli. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Allora io voglio leggerle subito, dottor Grazioli, un ascoltatore che senza firmarsi mi scrive velocemente, punto: cani neonati, problemi di infezioni? Lo sento anche un tono un po'... Ecco, rispondiamo subito a questo ascoltatore. Ascoltatrice, una domanda. Allora, mi ha scritto velocemente e mi ha messo un punto, quindi sì, immagino sì. Che anche lei sia un messaggio, okay, anche per lei. Però, cani e neonati, problemi di infezioni? Okay. Direi assolutamente no. Le escludo praticamente al 100%, se non per quel che riguarda un paio di malattie piuttosto rare, sì, e che stanno prendendo però un pochino piede, per cui a questo bisogna fare un attimino attenzione, mm-hmm, che sono le malattie trasmesse da zecche, esattamente la rickettsiosi, sì, e la malattia di Lyme, parole molto difficili, mm-hmm, ma questo per dire in modo molto semplice, e non solo rispetto ai neonati, ma anche rispetto agli adulti, che soprattutto in questi tempi d'estate, quando si va per boschi, in giro, eccetera, eccetera, bisogna fare molta attenzione, quindi grande profilassi, grande prevenzione per quanto riguarda le punture di zecche, che sono piuttosto pericolose. La prevenzione, c'è sempre tempo? Si può iniziare da quando? C'è sempre tempo. E in che cosa consiste? La prevenzione oggi consiste in una serie di prodotti che vengono definiti spot on, sono quelli che tutti conoscono come le goccine da mettere dietro, certo, al collo, tanto per intendersi, sì, perché il cane non vada a leccarsi, o il gatto, e sono di solito abbastanza efficaci se date una volta al mese, regolarmente, soprattutto nel periodo estivo autunnale, quando c'è caldo umido e quindi c'è lo sviluppo di zecche e pulci. E dottor Grazioli, il cane va controllato perché per valutare che magari durante una passeggiata in montagna, in collina, non sia stato punto da una zecca. Nel caso noi trovassimo la zecca, che cosa dobbiamo fare? Perché qua tutti dicono, allora, ciascuno ha la sua teoria. Ecco. Benissimo. Contrariamente a quanto si riteneva in passato, di magari bagnarla con l'olio, aspettare qualche ora o con l'alcol, perché così si tirava fuori anche la testa della zecca che era dentro, eccetera, eccetera, queste cose qua. Le ultime ricerche dicono invece di toglierla immediatamente, perché altrimenti il fatto di bagnarla con alcol o cose di questo tipo può prolungare la infissione del cefalotorace all'interno della cute e quindi la maggiore quantità, diciamo, di tossine che entrano. A questo proposito le posso dire che esiste una pinzetta che si trova apposita, che si trova nei negozi per animali a veramente una stupidaggine, pochissimi euro, e che serve per togliere completamente la zecca in modo definitivo. Ecco, questa è un'ottima notizia. Intanto dottor Grazioli, è arrivato qua anche in carne e ossa Angelo Vaira, che abbiamo ciao Angelo e che vedevo che seguivi con attenzione. Stavamo parlando di zecca, ecco, e questo mi porta ad Angelo a sottolineare un aspetto che di cui tu parli molto spesso nel tuo libro, e cioè che noi siamo responsabili dei nostri animali. Sì, assolutamente. Cioè, spesso la gente quando adotta un cane si chiede che cos'è che il cane può fare per me, e invece noi dovremmo chiederci cosa posso fare io per la vita di questo essere vivente. E attraverso questa domanda poi a cascata arrivano tutta un'altra serie di cose buone, cose belle, no? Quando c'è l'ego di mezzo, purtroppo non si fa mai bene. Cioè, quindi io prendo il cane perché voglio compagnia per i miei figli, e poi invece non ho calcolato che quello lì ha bisogno anche lui dei bisogni, e se non vengono soddisfatti creerà dei problemi a me, ai miei figli, via dicendo. Quindi responsabilità significa io mi sto occupando di una vita. Certo. E questo porterà dei vantaggi se lo faccio bene. Dottor Grazioli, per lei che è veterinario, che cosa significa essere responsabili nei confronti essere dei nostri animali? Essere responsabili vuol dire che quando si acquista o si adotta un cane o un gatto, bisogna ovviamente, come dice lei, essere responsabili della sua vita, perché è un po' nelle nostre mani. Anzi, è molto nelle nostre mani. Quindi essere preparati anche alle avversità, perché molte persone purtroppo, soprattutto oggi che siamo in una situazione di crisi economica molto pesante, non mettono sul piatto della bilancia il fatto che magari il cane o il gatto possono ammalarsi, e di patologie anche serie, magari che richiedono delle cure costose, lunghe, eccetera. E questo può diventare veramente un problema dal punto di vista economico. Quindi questo vuol dire anche essere responsabili, cioè acquistare o adottare il cane o il gatto nel momento giusto. Allora abbiamo di nuovo Marco, è il nostro ascoltatore che non si firmava e adesso si firma, e la sua parola chiave è velocemente: gatto che va dentro e fuori siamo tormentati, gatto che va dentro e fuori casa camminando e accovacciandosi su sedie e divano, può portare batteri nocivi? No, dal punto di vista dei batteri assolutamente no, direi che proprio, se vogliamo, c'è il discorso del protozoo, della toxoplasmosi, e questo lo considero un evergreen, nel senso che sono 30-40 anni che, però dal punto di vista dei batteri no, direi di stare attenti magari a parassiti, ecco, oppure soprattutto a una delle malattie che il gatto può trasmettere più facilmente all'uomo, ed è la micosi, quella che veniva definita un tempo tinea, ecco, che è sono i classici funghi cutanei, dei quali spesso il gatto viene ritenuto responsabile, ma magari vengono poi presi in palestra o in piscina o in altre cose, e siamo noi a trasmetterli al gatto. Quindi bisogna anche fare attenzione a non incolpare troppo velocemente il povero gatto. Tra virgolette killer, il povero gatto, esatto. Angelo, noi abbiamo questa abitudine, soprattutto per gli animali che vivono con noi in appartamento, mm-hmm. di tenerli vicini vicini, sì. quasi a dimostrare una maggiore, a sottolineare un'intimità. Ci sono persone che dormono con i loro animali. Certo. Ne hai davanti uno, eh? Anche tu ne hai un'altra. Ecco, però... cosa facciamo? Cosa facciamo? È giusto, non è giusto e via dicendo. Beh, diciamo che qui si devono incontrare le abitudini e i bisogni della persona con quelli del cane. Quindi io, per esempio, il cane che avevo prima di Jean-Pierre, il mio maestro, Lucky, di cui tu avrai letto nel libro, lui non amava per niente stare lì abbracciato, venire là. Ogni tanto osava venire sul letto, io glielo concedevo, ma lontano, cioè deve avere il suo posto lui. Jean-Pierre è l'opposto. Jean-Pierre, che è questo cagnolino, se tu lo metti sul divano, sul letto, questo si intrufola sotto il braccio. È un momento di condivisione molto forte, quello a cui bisogna stare attenti e fare in modo che la relazione non prenda soltanto questa dimensione. Cioè, se io sono convinto che prendere un cane, adottare un cane e vivere con un cane sia soltanto coccole, purtroppo non gli sto facendo un favore. Il cane ha bisogno di coccole, di affetto in un momento, ha bisogno di disciplina in un altro, ha bisogno di muoversi, di fare esercizio, ha bisogno di giocare, di socializzare con gli altri, di crescere a livello cognitivo. E tutto questo è una scoperta per noi. Io, se il dottor Grazioli viene con noi dopo i mercati, mi dice di sì, dottor Grazioli, volevo dare la parola... Sì, però, 5 minuti. No, neanche, 30 secondi. Rubando una massima a Mark Twain, sì? che diceva che una casa senza un gatto non è una casa, io la modifico e dico che un letto senza un gatto non è un letto. Che allora io volevo andare a Cuneo, c'è Bruna che ci aspetta, poi andrei ai mercati e poi sentirei proprio gli ascoltatori che ci chiedono delle informazioni su come condurre, vivere queste relazioni, ma al tempo stesso c'è molta richiesta, dottor Grazioli, di informazioni per sapere se i nostri amici animali possono portarci delle malattie, ma scopriremo che anche noi possiamo portare malattie a loro. Bruna, buongiorno da Cuneo. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Io volevo fare due domande al vostro esperto, perché ho un cane e un gatto. Allora, per quanto riguarda il mio cane, lui ha purtroppo un alito un po' cattivo e lo sto dando con degli antinfiammatori tipo Stormogil e avrei intenzione di fargli fare la detrattasi dei denti, però ho un po' di paura per la come si dice, anestesia. Sì. Ecco, e voglio sapere se sarebbe il caso di farlo o meno. Sì. E poi un'altra domanda al mio gatto: spesso quando esco il mio cane e mi faccio una passeggiata sotto il mio appartamento, che abita il primo piano, il mio gatto miagola dal balcone, ci vede e insomma, miagola. Sì, dice: mi avete lasciato a casa, ma il gatto di solito non passeggia con non passeggia per strada al guinzaglio, no? Quindi non soffre. Non lo fa. Beh, sì, è meglio lasciarlo a casa in quel caso. Per il gatto è un po' pericoloso andarsene in giro, sebbene ci sono delle eccezioni, e poi magari dopo ne parliamo. Ne parleremo di cani, di gatti eccezionali, dottor Grazioli. Per la detartrasi, per pulire i denti ai cani, si deve fare naturalmente l'anestesia. È rischiosa l'anestesia? Dipende dall'età del cane e dello stato di salute. Dipende dallo stato di salute, dipende dalle condizioni, soprattutto mi raccomando, di pretendere esami preoperatori e nei cani, gatti al di sopra dei 6-7 anni un elettrocardiogramma o un ecocardiogramma per avere una tranquillità ovviamente maggiore, come si fa per l'uomo. Essere e benessere. Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario? E siamo tornati insieme, parliamo del rapporto che ci lega ai nostri amici animali. Io voglio ringraziare di cuore Danilo, che su Facebook mi chiede spiegazioni, perché lui vuole sapere che cosa c'entra questo argomento con essere e benessere. Grazie Danilo, non l'avevo forse esplicitato a sufficienza. Che cosa c'entra? C'entra, siamo partiti con delle ricerche che arrivano dalle più prestigiose università americane, che sottolineano i vantaggi che la compagnia di un animale male ha per la nostra salute psicoemotiva. Perché vogliamo parlarne? Ne vogliamo anche parlare perché questa relazione deve essere che ci fa bene, ci tiene compagnia l'animale, ci fa anche scoprire lati del nostro carattere, aiutare a vedere la vita anche sotto un altro aspetto. Questa relazione deve essere una relazione equilibrata. E poi perché vogliamo parlarne? E infatti abbiamo in linea con noi il dottor Grazioli, perché gli animali che vivono con noi devono essere controllati e devono essere mantenuti sani. E quindi, quando dico mantenuti, ci stiamo avvicinando all'estate, vuol dire anche quando è estate, quando sono malati. Dottor Grazioli, Angelo Vaira, volete magari aggiungere qualcosa per chiarire un po', perché è importante, parlando di salute, parlare anche della convivenza con gli animali, dottor Grazioli? Sì, vorrei fare un esempio all'ascoltatore che ha fatto questa domanda. Oggi è obbligatorio soccorrere gli animali in caso di incidente, è obbligatorio per legge, esattamente come soccorrere una persona, quindi un uomo. Se dovesse capitarvi e capitare a lui, sarebbe opportuno avere delle conoscenze su come fare, magari per non prendere una morsicata, questo per dire che non solo c'è il discorso degli animali che stanno con noi, ma c'è anche il discorso degli animali che possiamo incontrare, incrociare nel nostro destino, nella vita, per strada, eccetera. Ecco perché è importante parlarne anche sul essere e benessere. Angelo, possiamo... Sì, dicevamo prima che chi vive con un animale ha minori probabilità di contrarre infarti, no? Gli fa bene al cuore, libera endorfine, ossitocina, quindi ci fa star bene stare con l'animale, ma non soltanto, quindi è importante occuparsi di lui perché vive con noi e quindi ne abbiamo la necessità per lui. È importante per noi, è proprio questo decentramento, questo occuparci di un altro essere, questo riuscire a leggere quali sono i bisogni di un altro essere vivente, che ci fa evolvere come persona, ci fa fare quel passo in più, quella cosa che ci fa allontanare un attimino da noi stessi. E a proposito di controlli e di salute, dottor Grazioli, affrontiamo il tema della toxoplasmosi, una malattia che viene trasmessa dal gatto e che preoccupa sempre soprattutto le donne in attesa, che sono preoccupate di appunto essere infettate dal micio. Quali sono i rischi e che cosa si può fare? Allora, faccio una piccola correzione. In realtà non è vero che la toxoplasmosi è trasmessa dal gatto. La realtà è che la maggior parte delle toxoplasmosi è trasmessa attraverso il consumo di carni poco cotte, mm-hmm, o di verdure mal lavate. Questa è la realtà. Poi, se il toxoplasma si annidi e il gatto sia il serbatoio di questo protozoo, è indubbio. Io ho condotto battaglie titaniche, soprattutto 20-30 anni fa, con i ginecologi, perché almeno una o due volte alla settimana veniva in ambulatorio la classica ragazza in stato interessante, magari con la mamma, disperata perché il ginecologo le aveva detto di, fra virgolette, allontanare il gatto immediatamente. Al che io prendevo in mano il telefono, chiamavo il ginecologo e gli chiedevo informazioni sul modo in cui lui ritenesse opportuno allontanarlo. E da lì partivano faville e fuochi d'artificio. E la realtà è questa, con intanto l'infezione per quel che riguarda il feto, eccetera, è molto rara. È assolutamente, direi, impossibile se il gatto è indoor, nel senso che se ne sta rigorosamente in casa. Se il gatto va fuori, invece, esistono queste possibilità, e allora basta una semplice norma che praticamente azzera il rischio. È una norma semplicissima: cambiare la salvietta tutti i giorni e magari usare due guanti o farlo fare al marito oppure a un'altra persona. Questo fa sì che la ociste che è nella salvietta non riesca a sporulare e quindi non diventi infettante per la donna. Punto. E se cambia la salvietta ogni 24 ore, il rischio è zero. Dopo bisogna andare a mettere, bisogna proprio a prendere il gatto, prendere le feci e mettersi in bocca le mani. Allora, allora uno si mangia un bel filetto di coso crudo si prende la toxoplasmosi. È stato chiarissimo, dottor Grazioli. Io andrei a Maria che ci chiama da Como, 800 24 0024. Maria, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei sapere perché il nostro cane di mia figlia, da qualche tempo, ossia da quando è nato il secondo genito, lui è fissato con le ombre per terra, sul selciato, in cortile, segue le ombre e si fissa proprio sulle ombre, le segue. E noi non sappiamo, sì, coccoliamo tutto quanto, bizzarro, però certo. È un peccato, cioè gli facciamo sentire la nostra presenza, però perché fa così? Guardi, qui ci troviamo molto, molto probabilmente di fronte ad un disturbo ossessivo compulsivo. Ci vuole un professionista, cioè è una, se si tratta effettivamente di questo, dovrà confermarlo un comportamentalista. È una psicopatologia che va affrontata con una vera e propria terapia comportamentale. Per riuscire a procedere però ci vuole una diagnosi, cioè io per radio le do appunto qualche informazione al volo, ma ci vuole davvero un lavoro serio. Non vorrei passasse il messaggio che basta che facciate così e quindi risolvete tutti i problemi, perché non è vero, ci vuole una vera e propria terapia comportamentale. Non aspettate oltre, perché io mi ricordo una volta ho lavorato con un incrocio di Rottweiler che aveva questo stesso disturbo. Lui aveva imparato nel giro di 3 o 4 mesi a cercare di catturare le ombre, e talmente tanto per riuscire a fermarle sbatteva il muso per terra che gli sanguinava. Quindi questo può diventare con il tempo una grossa fonte di disturbo per voi, ma anche un grosso problema per il vostro cane. Va interrotto immediatamente. Per il momento quello che avrete già probabilmente cercato di fare è di evitare che lui sia in questi ambienti qui. Mai giocare con i riflessi degli orologi, che è una cosa che ho visto fare tante volte, mai giocare con i laser per terra che il cane insegue, eccetera, perché questo sviluppa più facilmente questo tipo di comportamenti. La telefonata di Maria mi dà l'opportunità di introdurre anche un aspetto a cui tengo in modo particolare. In questa puntata stiamo sottolineando i vantaggi della convivenza con gli animali, che sono diventati proprio nostri compagni quotidiani, che tendiamo e pensiamo di conoscere molto bene. Non possiamo però dimenticare i fatti di cronaca. Cani assolutamente tranquilli, e qua vorrei coinvolgere anche naturalmente, oltre ad Angelo Vaira, il dottor Grazioli, abituati a vivere in un contesto familiare, che improvvisamente diventano cani molto aggressivi e si trasformano in assassini. Allora, di fronte a queste tragedie, io mi chiedo sempre se non ci fossero magari stati dei segnali anticipatori di questo animale, di questi squilibri dell'animale, soprattutto anche là dove le tragedie si consumano nell'ambiente in cui il cane vive, con persone vicine alla famiglia. Angelo. Io non ho mai avuto una sola esperienza con un cane che è diventato aggressivo improvvisamente. Cioè, faccio questo lavoro da 15 anni, ho confronti con colleghi che sono alcuni veterinari, addestratori, educatori. Non ce n'è neanche uno che mi ha detto: oh, questo cane qui ieri non ha fatto nulla, oggi improvvisamente ha morso. Perché sia nel caso in cui l'aggressività molto raramente può capitare attraverso un disturbo organico, metti una neoplasia al cervello, cose del genere, anche queste si formano gradualmente, difficilmente portano ad aggressività. E quando invece è puramente comportamentale, psichico il disturbo, anche lì si hanno degli avvisagli prima, per cui il cane inizialmente, io immagino per esempio dei cani che hanno questi problemi di gerarchia con le persone, che inizialmente te gli dici di stare fuori dalla cucina, quello lì ti guarda e mette una zampa all'interno della cucina e ti guarda, no? E lì la maggior parte delle persone glielo lascia fare. Ma se gli hai detto che deve star fuori e lui continua ogni volta ad andare un po' più in là del tuo limite, ecco che a un certo punto il cane comincia a ringhiare e tu gli hai un sussulto, dici: come, il mio cane che mi ringhia? E se si tratta di un cane grosso, un pastore tedesco, un Rottweiler, sono dei cani che spesso hanno questo tipo, più spesso di altri hanno questo tipo di comportamento, dici: ops, forse adesso devo dirgli qualcosa, non posso stare così fermo, e il conflitto diventa sempre più amaro, no? E il cane poi può imparare che magari mostrandoti tutti i suoi denti o mettendogli le zampe addosso ti mette in difficoltà. E allora lì alcuni dicono: ecco, vedi, lì lo devi picchiare, però tu sei in grado forse di importi fisicamente, ma tua moglie e i tuoi figli? E allora ecco che lì è molto importante la prevenzione, capire che in quei casi non devi entrare in conflitto, e quindi di nuovo l'aiuto di un professionista. Dottor Grazioli, prima prima di salutarci, cani aggressivi, lei come veterinario? Sì. Allora, in generale sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Aira, a parte i rarissimi casi descritti in letteratura di quella che viene chiamata aggressività idiopatica, cioè nel senso che non si trova in realtà, pur andando a scavare, una causa. Quello che vorrei sottolineare è questo, di non, come diceva prima Vaira, attenzione anche al lato organico di questa, sì. Perché spesso si tende a sopravvalutare l'aspetto diciamo psicologico, e mentre ricordo ad esempio il caso, se volete chiaramente è una rarità, però un cane che era buonissimo, tranquillissimo eccetera, e è andato a fare un banale vaccinazione dal suo veterinario, il quale inavvertitamente ha lasciato l'ago all'interno l'ha fatto a livello di diciamo di quarto posteriore, sì. E morale della favola, per sintetizzarla, il cane ha cambiato completamente carattere, cominciato a mordere eccetera, e durante dei controlli di routine, quindi esami del sangue, una radiografia eccetera, ci è venuto fuori un bell'ago piantato a livello della vertebra di L7, cioè la vertebra lombare, che toccava una radice nervosa. E questo aveva, quindi, certo, il messaggio aveva cambiato comportamento, perché aveva un dolore terrificante. Quindi il messaggio è attenzione, perché esistono delle forme paraepilettiche, neoplastiche, filariosi, eccetera, eccetera, che possono mimare malattie. Assolutamente sì. Grazie dottor Grazioli per essere stato con noi, le auguro una buona estate. Noi grazie andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade, poi torniamo subito dopo insieme con Giuseppe da Bergamo, Denise da Milano, vi aspetto. Essere e benessere. Avremo un allevamento di cani dalmati. Un allevamento di cani dalmati. Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà. Mamma, in ogni momento nell'allevamento felice ciascun sarà. E noi andiamo a Bergamo, c'è Giuseppe che ci aspetta. Buongiorno. Giuseppe. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Buongiorno dottore. Senta, io avrei una cagnolina di nome Regina, vecchietta, 14 anni, e niente, poi 2 anni fa ho portato a casa 2 asinelli, Stella e Blizzard, solo che la cagnolina è gelosissima, piange sempre. Da quando sarebbe il mio sogno avere un asino, Giuseppe, lei ne ha prese addirittura 2. Erano destinati al macello e io li ho portati a casa, senta, ma come se la cava con gli asini? Io? Benissimo, mi trovo, faccio l'autista, comincio a girare la mattina alle 5, alla sera in centro a Milano, alla sera uno è stressato e io quando diciamo sono nella stalla che tutte le sere pulisco, diciamo li accudisco, do da mangiare tutto, loro niente, sono affettuosissimi. Come dei cani giganti, Angelo. Sì, come dei cani giganti. La vecchietta è un po' gelosa di questi. Sì. Ogni volta che modifichiamo l'ambiente sociale, l'ambiente familiare, no? Perché arriva il neonato, arriva un nuovo cane, arrivano 2 asinelli, cosa rara, ma meno male che ci sono persone come il signor Giuseppe, giusto? Si chiama. Sì. Sì, dobbiamo tenere conto che i cani potrebbero diventare gelosi. Allora, quello che dobbiamo fare è dedicare al nostro cane più tempo e più attenzioni proprio in presenza dei nuovi arrivati, in questo caso 2 asinelli. Cioè io temo che siccome avevano un rapporto simbiotico, da quello che ho capito, Giuseppe e la sua cagnolina, nel momento in cui lui adesso dà tutte queste attenzioni ai 2 asinelli, perché così si tiene occupato, lui fa piacere, questa cagnolina dice: uè, ma le altre volte quando te tornavi dal lavoro davi queste attenzioni a me, non c'erano gli asinelli, c'ero io, Regina. E allora Regina, che vedi che il nome è diventato poi alla fine predittivo del suo comportamento, ha necessità anche lei di attenzioni, magari proprio in compagnia, cioè mentre sono lì presenti i due asinelli, in modo che lei dice: vedi che ogni volta che ci sono loro mi vengo trattata bene. Vedi che rimango la regina. Denise, buongiorno da Milano. Ciao Nicoletta, grazie intanto di questa trasmissione, ce n'era tanto bisogno. Grazie a te. Allora, io ho una cagnolina che tu conosci, Gilda, che sì. vive a Milano e che frequenta molto... Certo, siamo... Denise è l'amica del parco. Esatto. Ma è la mia amica di parco, ma guarda che carambata, non ti avevo riconosciuta. Grazie, Denise. Vedi che finalmente riesco a chiamarti. Sì, mica bellissimo. Per niente ti dico che sono tua fan, io ci provo ogni tanto. Allora, ti dico qual è il problema sulla Gilda, sì. che tu sai frequenta moltissimo l'area cani, è molto seguita, è una segugia italiana di un anno, spiego a chi ascolta, un carattere molto dolce, socievole, che socializza in una maniera meravigliosa, tanto che ha un sacco di amici e riti legati ai suoi amici dell'area cani, dove sta 3 ore al giorno in media, slegata, felice e beata. La porto da 3 settimane in Toscana, dove abbiamo una casa nel nulla, nel verde, dove lei è sciolta, lei è un cane da cinghiale, così ci è stato detto quando ce l'hanno regalata. Gilda viene fuori un altro cane, cioè tira fuori un carattere fantastico, molto intraprendente, esplorativo, e io comincio ad avere un dubbio feroce. Santo Dio, questo che adesso non conosce guinzaglio da 3 settimane, che vive fuori, che... Quando tutto... tornerà a Milano, che succederà? Questo questo dipenderà molto da quello che succederà quando tornerete a Milano. È ovvio che c'è una differenza, e vi dirò di più: ogni volta che finiscono le vacanze, i cani che soffrono di ansia da separazione quando si torna al lavoro sono maggiori, cani compresi tra 1 anno e 2, no? Sono stato in vacanza tutto il tempo con te, adesso torni al lavoro, mi lasci a casa e quindi ho problemi. Quindi è possibile che al vostro ritorno, come si chiama la cagnolina, Gilda possa essere un pochino giù di morale, no? Anche noi lo saremo. Esatto, le distese, no? di verde che aveva in Toscana. Però abbiamo degli strumenti noi, per esempio far giocare Gilda con tutte le cose a cui lei può essere affezionata, tentare, questa è una cosa molto buona per i segugi, fare dei giochi di ricerca, imparare a fare dei giochi di ricerca, trascorrere con lei del tempo. Se attuiamo questo modo di fare, decisamente non avremo i problemi che giustamente si sta ponendo in questo momento Denise. Un bacio a Denise e una coccola a Gilda. Noi ci vedremo al parco a settembre. Grazie, grazie Denise. Ciao. Ci sono cani che oltre all'affetto regalano però anche l'indipendenza, ed è quello che è successo a Samuele, un ragazzo di 28 anni, non vedente, di Milano, che è in linea con noi. Samuele, ciao. Ciao, ciao. Samuele è amico per la pelle di Nelson, un golden retriever che vive da quanti anni con te, Samuele? Da un anno e mezzo, da novembre del 2011. E come ci si sceglie? Ma allora, diciamo che la scelta, l'abbinamento viene fatto dalla scuola, quindi dagli addestratori. In particolare Nelson viene dalla scuola Cani Guida, Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci, vicino a Firenze. E gli addestratori hanno naturalmente un prospetto dei futuri padroni, insomma, dei cani guida, e in base poi al carattere del cane, in base alla struttura fisica, fanno l'abbinamento, insomma, poi... si spera naturalmente che l'abbinamento sia azzeccato e che vada bene. Nel mio caso sono stato fortunato. Senti Samuele, però bisogna imparare a farsi guidare. Sicuramente bisogna imparare a fidarsi del cane, e il cane deve imparare a fidarsi di te, perché la conoscenza è reciproca, e diciamo che si lavora in team, quindi diciamo la perfezione non esiste, però i risultati si ottengono con il lavoro, con il tempo. Bravo. Naturalmente. Vedo che tu hai usato la parola fidarsi, che è una parola particolarmente cara ad Angelo. Vero. E c'è una fiducia reciproca. Tra l'altro, Samuele, tu e Nelson andate tutti i giorni con la metropolitana, andate in ufficio. Sì, esattamente. Poi al momento dell'uscita ognuno manifesterebbe le sue preferenze. Sì, perché questi cani sicuramente sono cani da lavoro, ma sono prettamente dei cani, quindi lui sa che vicino all'ufficio c'è un parco, quindi se io lo lascio fare, lui mi porta al parco, non mi porta in ufficio, quindi io devo dargli l'indicazione, il comando di uscire a un'uscita ben precisa, che è poi quella che porta in ufficio. Una volta che lui capisce, poi ci va tranquillamente, però questo per far capire che il cane non è un navigatore, ma bisogna sempre avere il controllo della situazione in qualsiasi cosa si fa. E in vacanza con Nelson dove andrai? Quest'anno ho deciso di andare in Svezia, a Stoccolma, e naturalmente Nelson verrà con me, perché ho il passaporto, quindi tutte le vaccinazioni sono in regola. E poi i cani guida hanno diritto di salire sull'aereo in cabina o accanto al padrone. Samuele, mandaci tue notizie del tuo. Bene, noi volentieri. Ti aspettiamo. Grazie a Samuele. Grazie a voi. Una coccola Nelson. Ma vedi questa cosa qua? Ti è piaciuto Samuele? Ma sì, perché ha toccato tutte le parole chiave che tu usi nel tuo libro. Team. E poi a proposito di essere benessere, no? Prima dicevamo che cosa c'entra. Beh, vuoi avere un navigatore, come diceva giustamente Samuele, dice non è un navigatore il cane, che tu imposti e ti porta direttamente in ufficio, invece avere lì il tuo cane che se te non gli dici nulla ti porta al parco, che magari ti farebbe pure un favore da un certo punto di vista. Però tu lì, quando devi dargli la giusta direzione, sei entrato in relazione con qualcun altro. E su questo noi vogliamo chiudere la puntata di oggi, la relazione, riflettere sulla relazione. Ho 30 secondi, Roberto Scaltritti me li conferma, per ricordarvi che dal 1 luglio sino al 31 agosto l'Ente Nazionale Protezione Animali ha lanciato il numero verde antiabbandoni, è l'800 137 079, disponibile 24 ore al giorno per tutti gli automobilisti e passanti che vogliono denunciare la presenza per le strade dei nostri amici a quattro zampe. Per oggi è tutto, saluto e ringrazio Angelo Vaira, grazie a voi. Grazie Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. A domani. Essere e benessere.